falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Avrete visto qualche volta quei filmati magari degli anni 60, ma ce ne sono anche oggi, con i predicatori americani che dicono la musica è peccato, che il rock and roll è la voce del demonio, è capitato, la salvezza è nella Bibbia, non bisogna ascoltare, allora dicevano Elvis, poi i Beatles, poi i Rolling Stones, e poi il heavy metal, e poi il punk, quindi in qualche modo, e secondo me hanno sempre fatto anche grande pubblicità a questi generi musicali, in qualche modo c'è sempre stata questa dicotomia tra il pensiero puro e la musica del diavolo, il rock and roll. Bene, oggi noi racconteremo la storia di un grande musicista che ha vissuto tutta la sua vita con un grande disagio interiore, perché aveva un'anima cristiana che lo spingeva a seguire gli insegnamenti, le sacre scritture, poi invece aveva una passione per la musica che l'ha consacrato come uno dei padri del rock and roll, fino a contendersi il trono con Elvis, e poi aveva anche delle passioni insomma molto terrene. Parliamo di Jerry Lee Lewis, e lo facciamo anche perché stimolati da Lorenzo, un nostro ascoltatore. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Enrico, grazie mille innanzitutto. Ma dunque sei giovane tu, però non sei dell'epopea del rock degli anni 50? No, io ho 19 anni. Fantastico. E come mai ti sei avvicinato a Jerry Lee Lewis e non a Justin Bieber? Beh, innanzitutto grazie a mio papà che fin da piccolo mi ha portato sulla buona strada, facendomi ascoltare sin da subito Jerry Lee Lewis e altri cantanti di quell'epoca. E appunto anche poi grazie a Jerry Lee Lewis, grazie a questa passione, devo poi il fatto che io suoni pianoforte. Caspita, ma sei pirotecnico come lui a suonare, ti giri, sei capace di suonarlo voltato in piedi? No, direi di no. Se da piccolo provava a farlo. Grazie Lorenzo, spero la puntata ti piaccia, ciao. Grazie mille. E questo è il rock and roll, la musica di Jerry Lee Lewis, e sono contento che ci sia gente come Lorenzo che ha 19 anni, e in questi casi insomma avere dei genitori che amano il rock ti salva la vita, perché sennò veramente finisci nella bimbo minchitudine senza neanche accorgertene, quindi viva i genitori che fanno sentire buona musica ai loro figli. Ma torniamo a lui, a Jerry Lee Lewis, e abbiamo parlato tante volte di rock o di rock and roll. Siamo sul Mississippi in questo momento, è qui che Robert Leroy Johnson, abbiamo fatto una puntata su di lui, si spostava da una città all'altra lasciando dietro di sé la leggenda che avesse imparato a suonare la chitarra dopo aver venduto la sua anima al diavolo, cioè un inizio perfetto dal punto di vista suggestivo e promozionale. E c'è un ragazzo da quelle parti, insomma poco lontano, si chiama Elvis Presley, sta facendo i primi passi nel mondo della musica, e intanto nel 1935 nasce Jerry Lee, figlio di Elmo e Mamie Lewis, una famiglia povera che si arrangia come può. Come da buona norma di molti personaggi del Falco e il Gabbiano, anche nella famiglia di Jerry c'è un padre che impiega gran parte del suo tempo a ubriacarsi, ma che per contro si preoccupa che in casa vengano osservati gli insegnamenti della Bibbia, in un misto tra fede, superstizione e alcol. E buona parte della popolazione a Ferride è di colore, e ci sono ancora grandi differenze di tipo razziale, perché ci sono luoghi che i neri non possono frequentare e ci sono posti nei quali i bianchi è il caso non si facciano vedere, e stiamo parlando dei locali diroccati dove si suona il blues. Uno di questi è la Hennessy Big House. Andavamo a vendere giornali e a lustrare le scarpe, e continuavamo a farlo finché nessuno badava più a noi. Poi ci intrufolavamo nel locale e quelli dentro erano talmente ubriachi che non riuscivano a camminare e non badavano a noi. C'erano dei tizi neri che arrivavano con un vecchio bus e sputavano fuori dai finestrini, ma ragazzi, quelli suonavano della grandissima musica, te lo garantisco io. E Jerry Lee osserva i musicisti che suonano al Big House e impara a suonare il pianoforte. E lo fa anche perché c'è bisogno di qualcuno che suoni in chiesa durante le funzioni e lui impara con una facilità incredibile. Tutti invocano il fatto che abbia avuto un dono dal Signore, ma spesso le musiche suonate in chiesa non vanno bene, perché se si lascia andare le dita cominciano a scorrere veloce, cominciano a perdere il controllo. Insomma, Jerry Lee sembra indemoniato quando suona, si agita, si alza in piedi, le sue dita scorrono sulla tastiera a una velocità che nessuno ha mai visto in quella zona. E anche al Big House, lui che è un ragazzino bianco, con i capelli biondi, biondo rossiccio, insomma, viene accettato dalla comunità nera, viene invitato a suonare. Lui ci va di nascosto, perché quando il padre lo scopre saranno dolori. A 15 anni fui mandato in collegio, in Texas. Ogni tanto scappavo e facevo l'autostop fino a Dallas, dove c'erano un sacco di locali. Una volta il pastore mi chiamò per suonare in chiesa e io iniziai a suonare tutto a tempo di boogie-woogie e fu un casino. Fui espulso, ma prima di andarmene dissi loro cosa pensavo. Non potrete mai capire la Bibbia da tutti quegli sciocchi libri che avete qui. Sì, lui è un ribelle, non le manda dire, e poi suona come un demonio, ma cita le sacre scritture. È una fede tutta personale, è un misto di Bibbia, musica, whisky e donne, è una cosa di famiglia, ce l'ha nel sangue, così dice la madre, l'unica che in tutta la sua vita abbia saputo capirlo. A 15 anni Jerry Lee incontra una ragazza, Dorothy Barton, 17 anni, e i due stanno assieme. Qualche mese dopo, appena Jerry compie 16 anni, i due si sposano di nascosto. Jerry Lee racconta una delle sue tante bugie, dichiarandosi come un agricoltore 21enne con la licenza media. Nessuna di queste tre informazioni era vera. Il falco e il gabbiano. Naturalmente il matrimonio di Jerry Lee e di Dorothy Barton, come era immaginabile, dura solo qualche mese e viene attivata la pratica di divorzio nella primavera del 53. Beh, Jerry Lee non è certo il tipo che si chiude in casa e piange. No, lui è un tipo inquieto, uno spirito selvaggio, si guadagna da vivere suonando da un locale all'altro e magari facendo anche qualche piccolo furto nella zona. Lo sanno tutti che lui è un tipo poco raccomandabile e fin da piccolo lui si porta dietro un soprannome, Killer, perché quando si siede al pianoforte tutti rimangono folgorati dalla sua bravura, da questo stile che mischia il blues, il boogie woogie, il country, il gospel che si canta in chiesa. È uno che ci sa fare, ma ci sa fare anche con le ragazze, perché nell'estate del 53 c'è una ragazza di nome Jane che rimane folgorata da Jerry Lee. Folgorata è poco, resta incinta in realtà, e siccome ha dei fratelli di quelli che non transigono, Jerry Lee viene obbligato a affrontare il secondo matrimonio. Lui dichiara di nuovo di avere 21 anni e di avere già divorziato dalla prima moglie, e come sempre non c'è nulla di vero. Così a 17 anni Jerry Lee si trova a essere momentaneamente bigamo con un figlio in arrivo. Mi spiace che il signor Phillips non fosse qui, ma gli farò ascoltare i nastri che abbiamo registrato appena torna. Sicuro che abbiamo registrato abbastanza, signor Clement? Io posso suonare tutto quello che vuoi. Sei in gamba, ragazzo, sei in gamba, ma con il piano tu non farai mai il becco di un quattrino. Alle ragazzine d'oggi piacciono i chitarristi. Ehi, a loro piace vederli dimenare, tu non lo puoi fare da dietro un piano. Eh sì, in teoria, insomma, la chitarra è il classico prolungamento fallico che fa di chi sta sul palco un eroe. È più difficile piacere se suona il piano, ma come vedremo, lui ci riuscirà. Nel 55 Jerry Lee, che nel frattempo comincia a farsi chiamare Jerry Lee Lewis, cioè il cognome del padre e della madre, va a Memphis alla Sun Records di Sam Phillips. Era quello che l'anno prima aveva lanciato Elvis Presley, e in questo stralcio del film Great Balls of Fire si intuisce l'esito del provino, perché Jerry Lee suona il pianoforte, però in quel periodo l'abbiamo detto, il rock and roll si suona con la chitarra. Insomma, sembra la fine di un sogno, ma quel giorno Sam Phillips non è presente. Quando ascolta i nastri registrati, richiama Jerry Lee Lewis, decide di fargli incidere una cover di una canzone country di Ray Price, Crazy Arms. Sam, sono Brown, si ricorda di me? Lui è Jerry Lee Lewis. signor Phillips. Metti insieme una mano destra bianca e una mano sinistra nera e cosa ne viene fuori? Figliolo, viene fuori rock and roll. Jerry, io ho dei grandi progetti per queste mani. Beh, signor Phillips, queste mani possono guarire chi soffre. Possono far risorgere i morti e far perdere la testa alle ragazzine. Alleluia! Beh, alla fine, insomma, quello è un propulsore notevole, eh? Uno inizia a suonare anche per motivi del genere. Comunque il disco ha un discreto successo, le ragazzine per ora stanno impazzendo per Elvis Presley, lui si deve accontentare di suonare come turnista nelle altre produzioni della Sun. Nel 57 però Jerry ha la possibilità di incidere un altro disco. Negli ultimi anni si è guadagnato la stima di Sam Phillips, ha una band il cui cugino suona il basso. Jerry Lee vive da lui dopo che anche il suo secondo matrimonio è naufragato. È un momento difficile perché non si parla più di un quindicenne irresponsabile, ma di un uomo che forse però non ha imparato ancora a vivere. A Lot of Shaking Going On è un pezzo inciso dalla cantante blues Big Maybell. Bene, Jerry decide di metterci le mani e la trasforma suonando il piano. La canzone cantata da lui ha dei chiari riferimenti sessuali. Sam Phillips teme che le radio americane possano decidere di non suonare questo pezzo, però il risultato finale è travolgente. Sentite la differenza tra la versione A e la versione B. Il disco esce nel maggio del 57 e in poco tempo scala le classifiche americane e arriva alla posizione numero 3. E poi c'è un fatto importante perché la canzone entra in classifica anche in Europa, arriva al 38esimo posto nella classifica inglese e in quel periodo la cosa era abbastanza rara. Insomma, Sam Phillips è convinto di aver trovato un artista capace di tenere testa e forse anche di offuscare la stella di Elvis Presley. Jerry Lee Lewis viene travolto da un'ondata di popolarità senza precedenti. E Jerry Lee vive ancora nella casa del cugino, il successo fa sì che ragazzine urlanti lo inseguano forsennate dappertutto, ma a lui ne interessa una di queste ragazzine, è sua cugina Myra Gale, ha 13 anni, 10 anni meno di lui, è amore a prima vista, tutto si svolge tra le mura domestiche. E quando arriva il successo arrivano anche i soldi, i due si sposano di nascosto, tengono il segreto per una settimana. Terzo matrimonio di Jerry Lee Lewis. Quando la verità viene a galla scoppia il finimondo, ma il fatto è compiuto. Bene, c'è da gestire il successo, il padre della ragazza e anche il bassista del gruppo. Insomma, le nozze vengono accettate o quantomeno tollerate. Mi disse, ehi baby, ti amo dal primo momento che ti ho vista. E io risposi, cosa? Ma ero solo una ragazzina di 13 anni e per me lui era un idolo. Cosa potevo fare? Jerry Lee Lewis partecipa con grande successo allo Steve Allen Show e subito dopo esce il suo secondo singolo, forse quello di maggior successo di tutta la sua vita, quello che lo trasforma nel pretendente al trono di Elvis Presley e quello che lo proietta nella storia. Great Balls of Fire. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia e la tumultuosa vita di quello che viene considerato uno dei più grandi cantanti del rock and roll. Lo facciamo anche grazie alla segnalazione del nostro amico Lorenzo, che ci ha detto, ci ha scritto, perché non parlate di Jerry Lee Lewis? Ecco qua, siamo partiti da un'infanzia tra le baracche della Louisiana, quando il piccolo Jerry si intrufolava nei locali dove i neri suonavano il blues e dove impara a suonare il pianoforte in un modo che molti definiscono un dono divino e altri definiscono un dono del demonio. E la sua vita è sempre combattuta tra gli insegnamenti dei predicatori evangelici e la trasgressione del rock and roll. E si sposa due volte quando non ha ancora 17 anni. A 22 anni si sposa con una cugina di 10 anni più giovane di lui, Myra Gale. Ora che il successo è arrivato con Great Balls of Fire, molti dicono che è pronto per offuscare la stella di Elvis Presley, anche perché nel marzo del 58 accade un fatto da cui Jerry Lee Lewis ha solo da guadagnare. Pulling into Brooklyn was a very important person, none other than Elvis Presley, Private Presley, soldier nowadays in Uncle Sam's service. The rock and roll king was about to embark for foreign service, 18 months in Germany. L'Uncle Sam Service di cui parlano è il servizio militare. Elvis Presley, il re, deve abdicare almeno temporaneamente. Parte per la Germania, rimarrà lontano dalle scene per 18 mesi. È il momento adatto per dare un colpo d'ala, per approfittare dell'allontanamento forzato di Elvis. Quattro giorni dopo questo cinegiornale, il 28 marzo del 58, Jerry Lee Lewis è ospite a New York in un concerto collettivo con molti suoi colleghi, tra questi c'è anche Chuck Berry. Bene, Jerry Lewis vuole essere l'ultimo alla sfrontatezza dei giovani rocker e vuole chiudere lo show. L'organizzazione dice che deve essere Chuck Berry a farlo. Lui allora sale sul palco, suona Great Balls of Fire, a un certo punto si alza in piedi, butta dietro di sé lo sgabello, prende una bottiglia di benzina, la butta sul pianoforte, dà fuoco al pianoforte e continua a suonare davanti a un pubblico impazzito. Poi va dietro le quinte e con molta calma dice a Chuck Berry una cosa tipo: tocca a te amico, vai, il palco è tuo. Ma il palco stava bruciando. Il 1958 è un anno cruciale nella carriera di Jerry Lee Lewis, perché dopo l'incendio del pianoforte la sua fama è alle stelle. Escono altri singoli, Breathless, High School Confidential. È il momento di sbarcare in Europa. Eh sì, i tempi sono maturi, i singoli sono tutti entrati nella classifica inglese, c'è molta attesa per il primo tour di quello che tutti chiamano il killer. E Jerry Lewis sul palco è una forza della natura, è seduto al piano, scatena il pubblico, suona con il tacco, si siede sul pianoforte, si alza in piedi, insomma smentisce quelli che dicevano che non avrebbe mai entusiasmato con un pianoforte. La Sun Record organizza quindi un tour in Inghilterra con 30 concerti in 37 giorni. Tutti sono sicuri che alla fine del mese Jerry Lee Lewis diventerà la star di rock and roll più grande di tutti i tempi. Ma come spesso accade, sorge un problema. Ciao papà. Cosa diavolo ci fai tu qui? Dovunque va Jerry Lee Lewis, con lui va anche sua moglie Myra Lewis. Ah beh, giovane signora, non crediamo che sia proprio una buona idea quella di aggregarti in questo particolare viaggio. Perché no? Beh, per via della gente. Là potrebbero non accettare il vostro matrimonio. Il fatto che sei così giovane e tutto il resto. Oh, noi diciamo che a 15 anni il problema è risolto. No. Sai, tutti i giornali là affermano che tu potresti diventare il futuro re del rock and roll. E devi comportarti di conseguenza. Esatto. Lei invece viene e basta. Beh, ammirevole comunque nella sua follia, però ammirevole la decisione di dire no, lei è mia moglie e viene con me. E non si sa quanto Jerry Lewis fosse consapevole del rischio che stava correndo. E insomma, lui ha sposato una cugina che ha solo 13 anni e lì non c'è internet, per cui ancora l'Inghilterra è ignara di tutto. Lui è inflessibile e la comitiva parte per Londra. Quando il reporter mi chiese: gentile signorina, chi è lei? E io risposi: la moglie di Jerry. Vidi il suo sguardo cambiare e capii che qualcosa di grave stava accadendo. E quelli erano anni in cui non si scherzava. Pressanti domande dei giornalisti, lei che si tradisce e le prime pagine dei giornali che si scatenano, i tabloid come si suol dire. Eh sì, Jerry Lee Lewis ha una moglie di 15 anni e in realtà erano ancora meno, ed è al suo terzo matrimonio e il processo viene emesso dai giornali inglesi e la sentenza è di condanna. Jerry Lee Lewis non è un uomo per bene, ha una sposa bambina. E gli inglesi ogni tanto hanno queste come dire, cadute di modernità, memori dell'Inghilterra vittoriana. Fatto sta che l'accoglienza è freddina. Certo, quando suona le canzoni l'effetto è dirompente, ma accanto a tanti che applaudono ci sono dei fischi, ci sono dei cori di disappunto. E le cose peggiorano quando i giornali, che vanno a scavare a fondo della notizia, scoprono che in realtà Myra di anni ne ha solo 13 e che Jerry Lee Lewis è stato bigamo per un periodo della sua vita. Poi così, per non farsi bastare nulla, fanno anche notare che lei è la cugina e che il matrimonio ha dovuto essere ripetuto perché quando i due si sono sposati Jerry non aveva ancora divorziato dalla prima moglie e quindi era bigamo due volte. Insomma, ce n'è abbastanza per distruggere la carriera del killer venuto dall'America. E in breve, i 30 concerti vengono annullati e Jerry e la moglie vengono espulsi dall'Inghilterra perché non graditi. È un colpo d'ala negativo che si abbatte sulla carriera di Jerry Lee Lewis. Da quel momento non riesce più a centrare un singolo di successo. I pianeti si volgono tutti contro di lui, si disallineano. Viene messo in un angolo anche in America. Il cachet scende piano piano da 10.000 a 50 dollari a serata. È la fine del sogno. Sono anni brutti quelli che seguono al disastroso tour in Inghilterra e che dimostrano che ogni tanto i cantanti, qualche consiglio di qualcuno, dovrebbero ascoltarlo, perché lì cambia tutto. Per circa 10 anni lui sopravvive facendo serate in locali sempre più piccoli e con cachet sempre più bassi. Intanto dall'Inghilterra è arrivata la musica pop, o comunque sono arrivati i Beatles e tutti gli altri gruppi, arrivano gli Stones, il rock and roll degli anni 50 viene considerato parte di un passato. Jerry Lee sprofonda in una depressione, arrivano l'alcol, arrivano le droghe, comincia a avere guai con la giustizia, viene arrestato perché è pizzicato con decine di pillole di anfetamina sotto il sedile della macchina. E poi c'è una tragedia familiare terribile, perché nel 62 uno dei suoi figli, Steve Allen, a 3 anni affoga nella piscina di casa. Insomma, sembra non ci sia più via d'uscita. E la via d'uscita è questa, è il country, è la musica, ma non il rock and roll, perché Jerry Lee viene convinto a dedicarsi al country, che è una musica, come dire, che ha avuto meno alti e bassi in America, comunque funziona sempre un po'. E nel corso degli anni 70 lui comincia a inanellare una serie di successi che lo restituiscono al suo pubblico, quantomeno in patria. E negli ultimi 20 anni lui non ha mai smesso di fare concerti e chiunque l'abbia visto suonare dal vivo è rimasto estasiato dalla potenza che ancora oggi riesce a esprimere col suo pianoforte. Intanto nel 1970 termina il matrimonio con la sua sposa bambina, arrivano altre donne con le quali lui in qualche modo riesce sempre a dare scandalo. Nel 2012 per esempio si sposa per la 7ª volta con l'ex cognata, che peraltro è anche lei sua cugina. Una vita piena di colpi d'ala verso l'alto, colpi d'ala verso il basso, una vita difficile, in bilico tra il paradiso e l'inferno, esattamente come il rock and roll. E ancora oggi per tutti è rimasto quel ragazzone biondo che tutti chiamavano killer, che con 2 anni strepitosi di gloria e poi con una carriera comunque dignitosa ma difficile ha segnato profondamente la storia del rock and roll, Jerry Lee Lewis. E noi vi aspettiamo con altre storie e vi chiediamo di segnalarci, se volete, via mail al falco@radio24.it se conoscete una storia che merita di essere raccontata, oppure seguitemi, c'è il sito di Radio 24, c'è il mio Facebook, il nostro Facebook, il mio e il Twitter del Falco e il Gabbiano. Insomma, se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.